La Costituzione è una legge speciale, perché la Costituzione è la legge fondamentale dello Stato, cioè sono le regole di base della nostra vita, le regole che ci rendono cittadini. Perché prima della Costituzione, prima del 2 giugno 1946, noi non eravamo cittadini, eravamo sudditi. Ascoltiamo l'articolo, letto da Gaia Messer-Klinger, e poi il mio commento. Perché la Costituzione dobbiamo conoscerla per essere cittadini, cittadini migliori. Articolo 36. Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite e non può rinunziarvi. L'articolo 36 rappresenta la concreta applicazione di come si tutela il lavoratore e ha un elenco importantissimo di diritti del lavoratore. Il lavoratore ha diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro. Ha diritto a una retribuzione in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza dignitosa. Il lavoratore deve avere un tempo di lavoro e quindi la legge stabilisce la durata massima della giornata lavorativa. Ancora, il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e alle ferie annuali retribuite e non può rinunziarvi. Questa idea di lavoratore va inquadrata in quella che era la posizione del lavoratore, soprattutto subordinato, all'epoca dell'Assemblea Costituente. Ovviamente il lavoratore, oggi possiamo dirlo senza problemi, era quasi uno schiavo rispetto al sistema uscito dalla rivoluzione industriale. Ecco allora che va protetta la dignità del lavoratore, non solo con affermazioni di principio, articolo 1, articolo 4, articolo 35, ma declinando concretamente diritti del lavoratore, retribuzione sufficiente, retribuzione proporzionata, durata massima della giornata di lavoro, diritto al riposo, diritto alle ferie, irrinunziabili, in maniera che il lavoratore, grazie ai diritti costituzionali, possa da subordinato cercare di avere una posizione più elevata nella contrattazione con la parte del datore di lavoro. La Costituzione in questo protegge concretamente il lavoratore, che non dovrebbe essere più contraente debole, ma avere una sua dignità nel lavoro. Del resto la Repubblica è fondata sul lavoro. Ovviamente l'articolo 36 oggi ha un'applicazione difficoltosa perché sappiamo come negli ultimi anni si siano sempre più sviluppate forme di lavoro a termine, occasionale, accessorio. Tutti pensano ai lavoratori dei call center o comunque a questi lavori totalmente interinali. Anche lì l'articolo 36 arriva, anche lì l'articolo 36 tutela, perché i canoni fondamentali, le declinazioni fondamentali valgono per tutti, per cui la legislazione, che poi applicazione della Costituzione, cerca di inseguire il fenomeno, cerca di disciplinarlo, cerca di regolarlo proprio per garantire a tutti una dignità nel lavoro e una retribuzione sufficiente e proporzionata.